Quella sera era di giugno, l'atmosfera quasi irreale. Nel cortile solo il tuo sangue e la nostra rabbia là nel viale. Il loro odio ti spingeva dalla vita verso la morte. Troppo presto ti han presentato il destino mutato in sorte. Cercato invano che lei non vedesse, in mano chiusa è una chiave. Imprigionato nel cuore il ricordo e l'ha imbarcato su di una nave. Ma quella nave non è mai affondata, l'ho rivista ieri sera. Con le vele gonfie di vento e il tuo nome sulla bandiera. Francesco era primavera, Francesco era libertà. Adesso porti in mano una rosa e nell'altra la verità. Francesco era primavera, Francesco era libertà. Adesso porti in mano una rosa e nell'altra la verità. Storie, sabbia versata dentro al mare, menzogna sparsa senza pudore, vera giustizia non può fermare. Quel vento antico risuona ogni sera, di una rosa e una bandiera. La rosa giace a terra